e solenne, di coraggio, e trova un pallottolino di carta sotto i piedi nel solaio e non crede ai suoi occhi. Non crede ai suoi occhi, non gli sembra possibile che una cosa del genere sia accaduta, e come capita a molti di noi, erano queste le cose che poi volevo dire, come capita a molti di noi quando abbiamo una notizia troppo dura per essere accettata, dice a se stesso che non ci crede. Veniva in mente un paragone quando per esempio ci annunciano la morte di una persona cara o di cui non avremmo mai supposto per motivi di età o semplicemente per motivi di differenza affettiva che potesse morire, anche se questo è il destino degli esseri umani. E una delle prime osservazioni che noi facciamo, le prime reazioni che noi abbiamo è quando uno ti dice che qualcuno è morto, come rispondiamo? Come? Diciamo è impossibile, è impossibile. E così quando uno ha la notizia di una malattia che è chiusa nella porta, aspetta, chiudetela un pochino per almeno per dare un po' di... ecco, grazie. Ecco, grazie. Così quando ci annunciano una malattia, la prima cosa che noi diciamo è impossibile, non ci credo. Sono espressioni che sono molto sintomatiche, cioè noi non vogliamo affrontare la realtà. Non vogliamo affrontare la realtà. Vi avevo già accennato che secondo Freud l'uomo è un essere fondamentalmente conservatore che vorrebbe rimanere nella condizione in cui sta sempre e comunque, salvo il fatto che è la vita che si impone di cambiare il corso delle sue cose, il suo destino. Nessuno vorrebbe uscire fuori dal seminato in cui si trova. E quindi lui dice si sono amati platonicamente. Ma guardate, dire una frase di questo genere vuol dire anche avere quello che Nietzsche chiamava buon modo, vuol dire avere un buon carattere, insomma, perché ci sono delle persone che vedono in modo sospettoso e malevolo tutto quello che concerne il giudizio degli altri su di essi, no? E vi sono delle persone invece che hanno un buon carattere. Questo buon carattere, in realtà, che Flaubert illustra, ci è stato dipinto dallo stesso Flaubert nel corso del romanzo come unito a una certa stoltezza del personaggio. Più che buon carattere è un bischero, insomma, è uno stupido. Ma pian piano si vede che buon carattere assume una connotazione autonoma e positiva, per cui è come se in una davvero magia artistica, come se il personaggio di Charles, questa è l'idea che volevo esporre, diversamente dagli altri personaggi che seguono un destino molto chiaro, fanno sempre quello che noi ci aspettiamo da loro, tutti, neanche uno escluso. Il personaggio di Charles nel corso del racconto sfuggisse di mano a Flaubert. Naturalmente Flaubert sapeva bene quello che faceva, ma la mia sensazione di lettore è che poi a un certo punto lui Flaubert si sia intellito, si sia affezionato a quest'uomo che era stato così onesto e così chiuso nel suo amore, e starei per dire si sia anche oscuramente identificato con lui, no? Quest'uomo che aveva subito l'onta del tradimento. Tempo fa facevo, in altra sede di questa, facevo un'osservazione sul fatto che storicamente si è abituati al fatto che le donne siano tradite. e direi che nessuno si occupa più di tanto della questione, cioè la donna è fatta per essere presa e lasciata. Naturalmente esistono nella tradizione culturale donne che vengono lasciate, fanno scoppiare dei finimondi intorno a sé e vengono ricordate, di dove abbandonata da Enea, Fedra abbandonata da Ippolito. Ma insomma il fatto che la donna venga piantata proprio per una sottovalutazione storico-antropologica che della donna è sempre stata fatta sembra più normale. D'altra parte, pensate alle condizioni della donna nel mondo, quali sono, paesi islamici per esempio, e vi renderete conto di quello che diciamo, pensate come l'Islam, che rappresenta innegabilmente un tipo di società estremamente lontana dalla nostra, arretrata, se così vogliamo dire, rispetto alla nostra dal punto di vista dei diritti civili, eccetera, pensate, il trattamento diverso che viene riservato all'uomo e alla donna nel caso dell'adulterio, per esempio. Ci sarebbe un lungo discorso da fare su questo. L'uomo tradito è un po' sentito, questa è la cosa su cui stavo scrivendo tempo fa, l'uomo tradito è un po' sentito invece come il Dio tradito, quindi come se l'offesa che fosse stata fatta fosse un'offesa intollerabile, imperdonabile. Che la donna sia tradita è un'offesa perdonabile, che l'uomo sia tradito è imperdonabile. Un bel romanzo, uno dei pochi buoni romanzi del primo Novecento, poi un bel libro, come vi ho detto tante volte, nel secondo Novecento sono sulla punta delle dita di una mano, e nel primo Novecento sulle punte delle dita di due mani. È un romanzo americano che tutti forse conoscerete, che è Tender is the Night di Fitzgerald, in cui c'è per l'appunto la storia del tradimento dell'uomo, in cui l'uomo viene visto poveretto con tutta la compassione a cui ha diritto. Allora quest'idea dell'uomo tradito che merita ogni compassione rappresenta una sorta di svolta nella storia della umanità. Ed è anche una delle ragioni, questa partecipazione che poi ha nei confronti del suo stesso personaggio Flaubert, una delle ragioni per cui il personaggio diventa alla fine del libro il vero vincente. Vero vincente nella perdita, perché perde tutto ma vince moralmente. In una contrapposizione vedremo invece uno bieco da sempre, che è Omero il farmacista, che vince tutto. Lui vince Charles, ma ripeto, solo moralmente. Dice che si saranno amati solo platonicamente. Tra l'altro, in quanto Charles si rende conto che gli amori platonici, spesso tra uomo e donna, amori che non hanno potuto consumarsi perché lui era sposato, lei era sposato, per motivi di differenza di età, sono i più spaventosi, sono i più duri. Cioè l'aspetto sessuale è l'inizio della fine, sempre soprattutto, nel senso che l'inizio è una pacificazione del tormento dei sensi, per cui da allora in poi il tradimento è possibile. Dove il tradimento non è possibile, dove l'amore si cementa, è nel platonismo per l'appunto, no? Nel platonismo. Ecco, ci sono persone che noi abbiamo amato nella nostra giovinezza, parlo del sottoscritto, con cui abbiamo avuto rapporti platonici, ma quelli a distanza di 30-40 anni non si dimenticano. Da dove vi sia stata invece una consumazione, spessissimo si dimenticano. E lui anzi volge in positivo, questa storia della donna, per forza l'ha amata, non poteva non amarla, perché era la donna più amabile del mondo. il dio Oca, vi ricordate, no? Bene, se Dio fa delle cazzate, noi siamo propensi a giustificare. Questa è la mia idea. Di cazzate Dio ne fa molte, in realtà, se posso dirlo senza spirito blasfemo, perché i campi di concentramento, una tra tutte, è una cosa abbastanza tragica, terribile, incomprensibile, che ha fatto, ha scosso le coscienze religiose di tutto il mondo e per sempre, insomma, no? Però insomma, che cosa dice un credente? Un credente dice che Dio ha agito, un credente parla della religione occidentale, della religione cristiana, eccetera, ha agito in realtà per un suo disegno imperscrutabile, per cui ha fatto ammazzare, che so, i bambini a Marzabotto, buttandoli in aria, cioè, usandoli come tirasegno da parte dei nazisti, ma lo ha fatto per mettere alla prova l'uomo, eccetera. Cioè, sostanzialmente, la mia idea, che avanzo così molto timidamente, se vogliamo, è quella che si cerca sempre di giustificare chi amiamo. Quindi se uno ama Dio, cerca di giustificarlo, ma se Dio gli ha mandato il cancro, vuol dire che c'aveva un cancro. Se Dio mi ha ammazzato mio figlio, vuol dire che c'aveva una ragione. E sarebbe molto bello, ma ovviamente è impossibile fare un discorso su questo tema. Quando noi abbiamo nel nostro piccolo della nostra vita quotidiana un rapporto amoroso e il nostro partner, la nostra partner fa qualcosa di profondamente sgradevole, noi dopo essersi arrabbiati, cerchiamo di dire, ma forse aveva un motivo. Ma sapete perché questo? Per un motivo molto semplice, per star meglio noi, non per magnanimità. Perché l'idea di avere un partner cattivo, cioè, è insostenibile. Nell'amore c'è sempre la profonda tutela di se stessi. Quindi io giustifico il mio partner per star meglio io. Chiaro un punto. E lui giustifica Emma dicendo, ma certo che non si poteva non amare Emma, era così meravigliosa, e anzi immagina delle cose splendide su Emma, per cui poi la desidera, perché il desiderio amoroso nasce dal pensiero, dalla parola, no? Com'è che una donna, un uomo si eccitano? Con le mani? No, subordinatamente. Ma il tutto, come sapete benissimo, parte dalla testa. Se uno ha una testa buona, può nella vita avere delle eccitazioni sessuali eccezionali, stando assolutamente fermo, immobile. Insomma, ho conosciuto molte storie di questo genere. E il desiderio che nasce in lui è particolarmente terribile, sapete perché? Perché questo non può più essere esaudito in nessun modo, perché lei è morta. Quindi il desiderio diventa tanto più terribile quanto più sia inesaudibile. È in fondo, sempre trasportando il discorso dall'uomo dall'umano al divino, il desiderio per un credente fortissimo, perché Dio non lo toccherà. Torno sempre su questo concetto, perché Dio non lo vede, ma se Dio si presentasse nel salotto di Bruno Vespa, o si presentasse dal Papa dicendo io sono Dio, e si potrebbe andare avanti scherzando sull'argomento, la afferrabilità di Dio lo renderebbe meno desiderabile. Noi vogliamo quello che non è afferrabile. Queste erano le considerazioni che volevo fare, ma c'era un'altra su questo passo fondamentale, quando dice che lui vuol diventare lei. Quando uno ama molto una persona, vorrebbe essere la persona, nella grande fenomenologia del rapporto sessuale, uno dovrebbe penetrare di più o essere penetrato, se è una femmina, di più dalla persona, pur due maschi di omosessuale, no? Non si arriva mai abbastanza al fondo, non solo, ma tu vede che al di là del fatto che lui indossa, per esempio, splendide queste cose, peccato che siate molto giovani, come ho detto molte volte, peccato meraviglioso, quindi non capiate nulla di questo che sto dicendo. Lui indossa delle cravatte bianche, lo capite? Perché cravatta bianca voleva dire lusso. Siamo in campagna, quindi la cravatta bianca, voi capite che è un po' fuori posto. Ma il fatto che lui indossa delle cravatte bianche perché è per essere bello, elegante agli occhi di lei, no? È un po' come i contadini che andavano alla messa una volta in campagna con la giacca scura e la cravatta e la camicia bianca, perché così si facevano belli davanti al paese. Le cravatte bianche stanno a significare che vuole essere bello come lei, bella ai suoi occhi, non solo, ma prende le sue abitudini, una delle quali è perversa. Quella sciagurata di Emma firmava cambiali, cioè non pagava, e lui firma cambiali per essere come lei. Se lei avesse fumato, lui si sarebbe messo a fumare, capite? Questa tentazione mimetica in una coppia che si ama è conturbante ed è constatabile continuamente. Noi cerchiamo di diventare come la persona che amiamo. Se ci fosse un'altra occasione di fare questo discorso, ormai le occasioni sono finite, mi sarebbe piaciuto farlo, insomma, sul concetto della immagine e somiglianza di Dio, eccetera. Andiamo oltre e vanno avanti i pagamenti dei debiti. La casa viene svuotata, salvo la stanza che rimane come una specie di sacrario. E adesso, se voi andate, vediamo un poco, dunque vi dico anzitutto qualcosa della bambina. Quando, dovete sapere, quando una persona amata non c'è più, noi ci leghiamo a tutto quello che può essere legato alla persona amata. Tutto. Mettiamo che la persona amata, facciamo un paradosso, l'altro ieri sono andato a un matrimonio, mi sono trovato di fronte a una mia amica che fu mollata dal marito, abbandonata in un modo terribile, ha avuto tutte le disgrazie del mondo, il marito ha avuto un figlio da un'altra donna e lei si è legata al figlio che il marito ha avuto con l'altra donna, è diventata una sorta di nonna. Pensate un po', anziché sentirsi divorata dall'offesa, no? E il marito è rimasto sbalordito di questo, il traditore. Ma l'unico modo per poter sentirsi legata ancora a quest'uomo era prendere qualcosa di lui, anche questo figlio che non gli apparteneva, questo bambino che non gli apparteneva. Questo discorso è sempre nell'ottica dell'amore flaubertiano di assoluto, ricordatevi quello che vi dico, egoismo. Uno fa per l'altro, ma solo per averne il tornaconto della propria felicità. La bambina è presso il papà. È povera, nessuno si cura di lei, non c'è più un franco in casa, vivono in povertà. Cerca di fare giocare la bambina con quella goffaggine che hanno i papà nel fare giocare i bambini, spesso. A volte la scatola da lavoro, la cucito, di lei riappare, c'è un nastro, una spilla, vi riassumo questo, e questo vi ricorda quando lei lavorava al cucito, e quindi sono come in tutte le intermittenze del cuore di questo chiaramente sono dei dolori che si ripetono, perché quando una persona è morta o ti ha lasciato, tutto diventa pericoloso, tutto brucia, tutto, una penna che ti abbia regalato, gli occhiali suoi che sono rimasti sul tavolo, insomma, no? Ecco perché i più forti, quelli che hanno più possibilità, cambiano tutto, cambiano vita, insomma, pur di non vedere i resti di questa loro felicità. Vi ricordate la Vergine? Certo non la ricordate. La Vergine è quello che ha annunciato il senso della vita a Emma mentre moriva, quella ragazzina che era andata a finire con culinaria. Questa è la sostanza. E Emma ha riso. La vergola aveva questa orrenda deformazione facciale, va dal farmacista sperando di avere una pomata, ma questa pomata non lo cura. Allora prendete il capoverso La vergola, subito dopo questo capitoletto, La vergola, la pagina dopo, e quello è il 51, lo chiamiamo La vergola. La vergola che non aveva più che rire. Trovato? Il cieco, la vergine, che non aveva potuto guarire con la pomata, era ritornato sulla costa del Guadalquivir, dove narrava ai viaggiatori il vano tentativo del farmacista, e a tal punto che Omei, quando andava in città, si nascondeva dietro le tendine degli rondelli per evitare di essere riconosciuto, di incontrare. Lo odiava, cioè la Vergine odia il farmacista, cioè scusa, il farmacista odia la Vergine. E nell'interesse della sua reputazione, volendo sbarazzarsi di lui a tutti i costi, rivolse contro di lui una batteria nascosta che celava la profondità della sua intelligenza e la scelleratezza della sua vanità. Nei 6 mesi consecutivi si poté dunque leggere nel Fanal de Rouen, un giornale, dei trafiletti così concetti. Tutte le persone che si dirigono verso l'effetto di contrarre della piccardia avranno notato, senza dubbio, sulla salita del Guadalquivir un miserabile colpito da un'orribile piaga facciale vi importuna, vi perseguita e vi toglie una vi preleva una vera imposta sui viaggiatori, preleva una vera imposta sui viaggiatori. Siamo ancora in quei tempi mostruosi del Medioevo dove era permessa ai vagabondi di mostrare in tutte le piazze pubbliche la lebbra e le scrofole che avevano portato indietro dalle crociate, oppure no. Malgrado le leggi contro il vagabondaggio, le periferie delle nostre grandi città continuano ad essere infestate da bande di accattoni. Si vedono circolare isolatamente e che forse non sono i meno pericolosi. Cosa fanno i nostri governanti? Poi come inventava degli aneddoti. Ieri sulla salita del Guacchio, un cavallo imbizzarrito e seguiva il racconto di un incidente determinato dalla presenza del cieco. Agì così bene che lo si incarcerò, ma lo rilasciarono. E lui ricominciò. E Omi anche ricominciò. Era una lotta. Alla fine ebbe la sua vittoria, perché il suo nemico fu condannato a una reclusione perpetua in un ospizio. Nella sua ferocia vendicativa, ha dato delle belle prove di sé, vi ricordate una, quella dell'operazione del Piedmont, che è stato lui a suggerirla e ha avuto gli esiti che sappiamo della situazione della carta. L'altra è questa pomata che evidentemente non serve a niente. La Vergola allora va a dire che il farmacista gli ha dato una pomata che non serve a nulla, lui odia chi può contrastarlo nella sua volontà di affermazione e comincia a creare delle calunnie. Ma non interessa questo tipo di odio per un paio di affermazioni che vengono fatte. Dice: si vuole ancora permettere, come in quei tempi mostruosi del Medioevo, ai vagabondi di girare, eccetera. Esatto, perché Omé è un illuminista, ricordatevi bene questo. Quindi il Medioevo odia due cose: odia la civiltà arretrata, la civiltà antica, sottosviluppata, per così dire, e odia la Chiesa, odia la Chiesa cattolica. Quindi non si dà mancare l'occasione di dire che quei tempi del Medioevo erano mostruosi, in cui si permetteva ai vagabondi di mostrare le loro piaghe, quando è che avevano preso di ritorno dalle crociate. Cioè, sapete che una, giustamente per molti aspetti, una delle grandi polemiche che i laici hanno fatto nel corso della storia contro la Chiesa è proprio legata al fatto delle crociate. Le crociate che cosa erano? Le crociate erano delle campagne militari che venivano fatte, come sapete, dalla Chiesa cattolica sotto l'egida del Papa, no? Per ufficialmente andare a liberare i posti che erano occupati dai musulmani, in pratica per rubare quanto potevano, violentare le donne, uccidere, eccetera. Cioè c'era nel cattolicesimo una visione completamente lontana dal cristianesimo, da questo punto di vista, che è stato tradito completamente, bellicistica. Quindi è chiaro che un illuminista come Omé non può altro che deprecare quei tempi delle crociate e deprecare il Medioevo. Alla fine, nella sua malvagità, riesce a fare incarcerare la Vergine. C'è una cosa a cui pensa Omé. Nella sua infaticabile voglia di entrare nelle cose altrui per mostrare il segno della sua presenza. Pensate come è diverso Charles. Charles è uno che l'ha fatto studiare a stento. È come se fosse stato trascinato al matrimonio. L'unica cosa che voleva fare, quella che è riuscita a fare, quella che gli ha dato male, cioè il matrimonio con Emma. E allora lui fa l'iscrizione sulla tomba di Emma. Ed è un'iscrizione beffarda. È un'iscrizione involontariamente beffarda. Perché? Perché dice così. Prendiamo il capitoletto che si intitola Can à l'inscription. Subito dopo, lo vedete? Quand à l'inscription, Omé ne trouvait rien de beau corps. Avete trovato? La due pagine dopo. Quanto all'iscrizione, Omé non trovò nulla di bello come sta viato. E restava però lì a queste parole, scavandosi la mente, si ripeteva continuamente sta viato, finché scoprì amabile coniugem calcas, che fu adottato. Allora, dal latino, lo saprete anche chi ha fatto poco latino, vuol dire fermati viaggiatore, stai calpestando, e qui è la presa per il barbero, stai calpestando una moglie amabile. Amabile. Le traduzioni sbagliano abbastanza. Ce n'è una, la più bella, quella della Cotomersci, pare, o comunque quella di Rizzoli, che dice una moglie amata. No, non è amata. Amabile. Degna di essere amata. Ma voi capite il senso ferocemente ironico di questo amabile? Amabile. Perché Emma era degna di essere amata? Il fatto che fosse stata amata è indubbio, ma che sia fosse stata amabile, cioè degna di essere amata, questo è ben diverso. ed è come in qualche modo se lo scherno continuasse sulla figura di Emma Mularini, insomma, perché l'idea che il viaggiatore dovesse fermarsi, no? In meditazione su questa donna che era amata, che era degna di amore, è grottesco. Una cosa strana è che Bovary, pensando a Emma continuamente, la dimenticava e si disperava sentendo quest'immagine sfuggirgli dalla memoria in mezzo agli sforzi che faceva per trattenerla. Ogni notte tuttavia la sognava, era sempre lo stesso sogno, si avvicinava a lei. Ma quando cercava di stringerla, lei scivolava in putredine via dalle sue braccia. Scivolava in putredine nelle sue braccia. Una cosa strana, quindi, è che Bovary, pensando, dimenticava. In effetti, c'è uno strano rapporto fra il pensiero attivo e la memoria. Il pensiero che noi abbiamo può sollecitare la memoria, ma la memoria, come sapete, è riottosa, è labile. Facciamo un esempio del più banale possibile. Voi siete ragazzi e fate gli esami all'università, per i quali preparate degli esami, per i quali studiate dei libri. Questi libri al momento dell'esame, nell'ipotesi migliore, che non si verifica spesso, li conoscete, quindi quando il professore vi fa una domanda rispondete. D'accordo? Alcuni di voi, alcuni sono al primo anno, ma insomma avete comunque già esperienza, dopo l'esame sono in grado, sarebbero in grado di rifare l'esame, perché si ricordano ancora. Lasciate passare 2 mesi, o molto, o 3 mesi, e cosa ricordate di quello che avete studiato? C'è qualcuno che molto caritatevolmente ha inventato questo motto, è stato attribuito a un certo momento anche alla Lussenar, ma non è lei, insomma. Il motto è questo: che cos'è la cultura? La cultura è ciò che, comunque è una citazione che potete mettere non a capo del letto, ma solo le mie. È una citazione che dice così: la cultura è quel che ricordiamo dopo avere dimenticato tutto. C'è nel paradosso qualcosa di vero, nel paradosso, perché in effetti si potrebbe dire: ma se io dopo ogni esame all'università dimentico tutto, in realtà non dimentichi tutto, qualcosa ricordi che, come dire, assimili. Il processo di apprendimento della vita è così, che tu qualcosa assimili, tutto il resto vai di corpo. Mi piace questa metafora, avete capito? Volete che me la spieghi meglio? Lo butti fuori, però qualcosa ti rimane, e questo qualcosa di uno o qualcosa dell'altro, alla fine la tua vita di che cosa è fatta? Questo per quanto riguarda gli studi. Ma questo per quanto riguarda gli amori, perché se io mi chiedessi di un amore che cosa rimane, ci sono state mille piccole cose che sono avvenute, ma che rimangono delle gocce. La vita passata è, come dire, una goccina di gocce di memoria. In questo momento mi viene in mente che c'è una canzone, pare, che si chiama Gocce di memoria, credo. È una coroncina di gocce di memoria. Bella questa frase. goccina di goccina, allora ricordi una goccina del papà morto, della mamma morta, no? Del ragazzo primo che ti ha baciato, queste cose, una goccina, moltissime altre cose non si ricordano, ma queste cose qui sì. Se noi cerchiamo di ricordare una cosa a cui teniamo, non è affatto detto che la ricordiamo, perché la memoria subisce il suo processo. Ed ecco perché delle persone che non ci sono più, a un certo punto noi dimentichiamo cose fondamentali. Ve lo dicevo già in un'altra occasione. Cosa che dimentichiamo? La voce. La voce. Per gli occhi, per altri affari, per il modo di camminare, ci sono i cedimenti. Ci sono, a parte il fatto che anche qui può esserci la voce, ma poi è terribile, in realtà noi non vogliamo sentire la voce, perché è troppo la vita, è troppo uguale alla vita. Noi siamo disposti a vedere all'infinito gli occhi di una persona, ma la voce no. E comunque a un certo punto tutte le persone che hanno amato si rendono conto che la persona non c'è più. È partita. E Charles è un semplice e quindi vorrebbe in tutti i modi poter recuperare questa figura di Emma. E la sogna. E la sogna. Insomma, grosso modo, anche se la psicoanalisi ha fatto 100.000 passi da quando è stata inventata in avanti, grosso modo sapete che il sogno è la scena dell'inconscio, insomma, non è costruito. Quindi che cos'è il sogno? Anche se ci sono infinite variazioni sul tema, il sogno sapete che cos'è? È la rappresentazione di qualcosa che tu desideri. Che tu desideri. E quindi non lo so, insomma, vuoi amare una donna che non hai amato e immagini meravigliosamente, ma sono pochi belli, in genere sono tutti che facciamo, immagini meravigliosamente di poterla incontrare. E lui quindi sogna Emma, però, evidentemente tutto quello che è successo, la morte e tale, impedisce di abbracciarla come se fosse viva. Impedisce. Se una persona cara muore, attenzione, noi ricordiamo la persona che è morta, capito? Non la persona che abbiamo amato, ricordiamo la persona che è morta, quell'immagine non ci va più via dalla testa. Ed ecco perché ha tra le braccia poi questo corpo putrefatto. Vivono in povertà Charles Bovary e la bambina. Vi dico semplicemente che l'eroe, quello che ha rovinato Emma, il venditore di stoffe, l'usuraio, rifiuta di fare altre cambiali. Vi ricordate quel sistema, no? Lei sta per pagare una cambiale di 1.000 franchi. Lui dice no, non ne voglio 1.000. Questo per il vostro futuro eventuale destino di usurai, una volta che la disoccupazione giovanile in Italia fosse diventata a livelli inaccettabili, vi resterà l'usura. A strozzo tratterete i vostri amici e così riusciranno. Ma no, non voglio 1.000 euro, 1.000 euro, così, 1.000 franchi, me ne dai 800. E l'altro è tutto contento, diceva, 800. No, ma i 200 franchi vengono messi a interesse. Per cui, comprando poi un'altra cosa, 1.000 franchi, devi restituirne 1.000 più i 200 con interesse, è chiaro? Avete capito? Ecco, mi piace darvi questo suggerimento per vincere la disoccupazione giovanile. Esercitatevi a farlo con i vostri compagni. Questo è un sistema che metterebbe in moto l'economia a livello universitario. Il consiglio che vi do è prestate a strozzo. anche tra di voi, prestate a strozzo, ti occorrono minero, io ti ritorno, no, ma non ti ritorno, ti ritorno, un po' comodo, calma, e così vi state dietro alla persona. Ha capito bene? Ha capito bene? Anche per lei questo. Vedo, la vedo bene. La vedo bene. Vedo bene i maschi qui presenti, anche lei forse. Prestare a strozzo. No. È contrario ai pronunci. Le cambiali non ci trovano più. Ma che cosa succede? Succede che quando uno sta male, si rivolge a chi nella vita, a un certo punto, quando sei fottuto completamente, la moglie è morta, a chi ti rivolgi? O al prete, a Dio, perché solo poi il prete se ne sta fotte, e quanto a Dio forse è la stessa cosa. Quindi tra le persone più vicine nella famiglia, chi ti rivolgi? Al papà e alla mamma, no? Ma vi ricordate i rapporti con la mamma come erano, no? Che la mamma ti diceva che quella è la mignotta, vi ricordate questo, eh? Esattamente, e quando c'era ragione, e che il morale della moralità è bisogna ascoltare i genitori a questo punto di vista, eh? Allora si rivolge alla mamma e gli dice: senti, mi aiuti a uscire fuori, mi dai in prestito? Dice: guarda, dice la madre, spirito da strozzina dei genitori, dice: io ti aiuto, dice, io ti aiuto, faccio un'ipoteca sulla mia casa, eccetera. Sentite questi soldi che ormai affollano la fine del romanzo, però sappi che tua moglie era una mignotta, sappi questo, e lui deve masticare, inghiottire, capite perché deve inghiottire? Perché altrimenti non gli dai i soldi, eh? E alla fine che cosa gli dice? Voglio uno scialle, perché sapete che Felicità, la serva, si era portata via tutto, è rimasto uno scialle, voglio quello. E Charles però a questo punto, sapete, tutto è perduto, fuorché l'onore, insomma, di no, lo scialle non trovi, fai quello che vuoi, dice la madre. Puoi dire anche quella mignotta, ma lo scialle no. Questo titolo potremmo intitolarlo in questo modo: ma lo scialle no. Questo è un bellissimo titolo che viene in mente in questo modo. Puoi far quello che vuoi, lo intitoliamo così, questo capitoletto, ma lo scialle no, numero 52. Fermiamoci qui e poi continuiamo. Ma lo scialle no.